gli occhiali da vicino. Ne vai, vai. Siete tratti e vi. Mi a me, mi. Avanti. Avanti, mi a me. E mi. Chi sei, avanti. Ah, no, è Picadimbia. Picadimbia? La buccia mi è rimasta, se ti interessa. Forza di nato. Chi è? Con chi abbiamo l'onore di parlare? Boh, vabbè, dai, riprendi la caviglia. Vai, vai. Franco! Riprendi, aiuto. Ehi. Gianni. Oh. Che è? Mi arriva a Santiago 3. Cosa? Cosa vuol dire? Che mi arriva a Santiago 3. Ah, cosa risolvo? Che non ti balle. No, lo so io. Santiago 3 arriva. Dove vuole andare? Gianni. Beh. Ciao, Natalino. Ciao. Ciao, Gianni. Io sono stato Gianni. Ma purtroppo ormai la voce si è fatta. Ciao Bruno. Ciao. Tattarino, mica c'è Bruno. Ciao Bruno. Ciao, sono in macchina, adesso sono uscito, adesso sono vicino al ponte, adesso me ne faccio la zona alta verso le Querce e mi parcheggio lì. Ponte Nuovo, sì. Sì, Ponte Nuovo, via Pascoli, là. E anche io andavo lì, dove c'è il parcheggio delle Querce, lì schicchia forte. Adesso me ne faccio su alle Querce, c'è un parcheggio, un posticino lì, e da lì almeno mi sentite un pochettino. Adesso ti sentiamo, caro Bruno. Sono sceso ieri, avanti ieri, se ti trovavo lì dove andavi di solito, adesso non ci stai più scendendo lì. Ma è lì dove però? A Platta. Sono io, mattina e sera, c'è la stessa mattina. In questo periodo non stiamo pescando. Siamo venuti con Franco, non ti abbiamo trovato. Vabbè, là. Al limite, non c'avevo il numero, se no ti avrei telefonato. Tu no. No, adesso mi hanno chiamato, magari ero in zona. Siccome noi con quell'amico facciamo un po' di camminate in spiaggia tutte le mattine, anche stamattina. Era freddo stamattina, ma una bella camminata anche oggi. Sono Bruno. Ma non mi sentite? Eia. Perché stavo parlando, forse ci hanno parlato un attimo. Adesso mi sento tutti i giorni, questa mattina anche lì c'era freddo, ma una camminata in spiaggia non c'è tempo. Gappa, gappa. Eia. Eia va bene, dai. Interessante, non hanno vedo lui come ci io, se no... Ascolta, ma... Vogliamo parlare di dolori? A questo momento ho una frattura a una vesera e qui alle costole. Non ti dico altro, che c'è un contratto, c'è un busto alto che mi arriva quasi fino al collo. No, parliamo di dolori per piacere. Cazzo. No, vabbè, io non sono a quel livello, però ancora un po' di dolori ce li ho. Se sto molto in piedi e se cammino molto vi vengo. Se no non ne ho. Gianni. Via. Ma io la roba di Bruno, capito, io devo stare disteso, posso stare poco seduto perché comunque la colonna soffre. E cammino piano piano, infatti io non è che mi metto a correre, non è che piano piano, faccio fare un dolore nel tempo, non so. Ma io sono abituato a queste cose. Aiuta! E io lo faccio lo stesso col cane, mi non ti gridi tu, vado in spiaggia, io lo faccio col cane, mi prendo la strada nuova che porta al monte, mi faccio tutto il giro, vado a Prati e cesco da via Mores. Aiuta! Ehi, anche io c'ho il cagnolino, infatti quando ti vado da lontano, mi c'è la casa tua, io me ne vado perché ho paura che se si incontrano magari dopo un minuto non ho più il cane. No, ah, c'ha la musolola il mio, tranquillo, sempre con la musolola io esco. Aiuta! C'è questo piccolino che sta già 3 kg, ma è un po' piccoglioni, è lui che attacca, la maledizione è quella. Aiuta! No, l'interessante è che il cane non va mai, se va mai va si gira, ma se vado le scudizze, la roba del genere, lui è tranquillo con quelli piccoli. Gianni! Cosa c'è? Aniuta dov'è? Cosa? Aniuta dov'è? No, non capisco cosa dici, buco. Aniuta dov'è? Ma bagno, cosa devi sentire? Mariuccia! Dov'è Mariuccia? Mariuccia l'ho lasciata un po' di anni fa. Gianni! Ascolta, se ti presenti almeno c'è un trispolo almeno. Avanti, Dottali. Dai, sto mangiando. Riprendete voi, già vi ascolto. Ah, più tardi già entro. A chi tocca, fra? Gianni! Tu vuoi sotto a capare di rimbozzi? Dov'è Mariuccia? Non conosco nessuna Mariuccia io, momentaneamente. Bruno! Ecco tu, qui, lo conosciamo il sacco, no? Ma come adesso, guff, mi rompo solo le scatole a questa persona. Bruno, dov'è Filomena? Stefano Nome, ma Filomena che è tua sorella? Poco fa era la mattina, adesso l'ho mandata via. Tu ci ridai, Mariuccia. Oh, via, la mia è la base molto effetto. Bene, buonasera, ciao Gianni. Ciao. Sono bravo. Ciao. Ecco per parlare a Paolo. Sì, una cosa già, perché questa radio? Cosa? Perché hai questa radio? Qual è la radio? La tua, sei nasino, un po' compresso, cosa c'hai? Ha passato il naso. Forse perché sto parlando troppo vicino, guarda adesso. Così già va meglio, Stavo parlando con l'amplificato come parlavo col microfono normale, siccome adesso mi sono amplificato e non mi so regolare, dai. A volte me la avvicino alla bocca. Lasciala così, va meglio. Aiuta. Ma non hai altro da fare? Aiuta. Per carità, che... E deve essere si è scolato troppa birra stasera e... lo sa cosa lì. Ciao Franco, Gianni, Bruno. Tu come sono a campare di Sivozia? Con chi sei che mi hanno seguito, dai? Sono con Bruno Uragano, dai, con Bruno Uragano e Natalino che sta mangiando. Franco è scomparso e gli altri sono tutti scomparsi. Avanti. Ah, va bene. Ciao Bruno. Natale poco a poco il cibo, Ciao, ma no, ero un movimento, stavo parcheggiando. Chi sei, Tolino? No, Tino. Perché stavo facendo una cosa e ho sentito che sono un po' malato. Va bene, Natalino è rientrato? Dino! Passa Maricato Mari! Dino, dov'è Mariuccia? Tutti, la sorella! La sorella dove? Dino! Un tempo ti potevo dire che era in Galerante, adesso non so se ce la so ancora, Dino! Dov'è tua sorella? Noi ci abbiamo rompiballe. Ma va bene, Gianni. Ma sono stato vecchietto. Gianni! E Gianni! Chi te eres? Dove Mariuccia? Mi l'ho accompagnata adesso, era a casa. Si stava facendo compagnia, adesso l'ho accompagnata. Devo dire per la tua sorella che non può scocciarmi sempre, ogni volta che viene a suonarmi il campanello a casa. Mariuccia! Io non si può fare il gage nell'ara. Per carità, vabbè, adesso lo scherzo è bello se ti dura poco. Adesso mi sto già alterando. Ma sai chi sono io? Non lo so. Mariuccia! No, davvero, non lo sai chi sono. Mariuccia! Gianni, chi sono? Che casino. Bruno, riprendi, dai, io che non ne voglio intendere di chi si goglia, io superalo, fate sentire. Lo scherzo almeno si che dura poco, poi comincia a pesare. È come ti rubescio, diventa brasico dopo un po' di giorni. Quando sai chi sono io smetto. Credo che non li avrei conosciuti. Ma da chi non li abbiamo fatto cose, ma non vorrei sbagliare. Gianni! Oh. Ma segnale 9 qua, capito. Ma io già sono al calduccio, non ci vado a cercarlo di certo, me la futti lunga. Beh, come la radio Gianni? Ma va bene, sì. Interessante che pestiamo a questo miserabile che sta rompendo le scatole. Ma perché lo senti? Spero anche io. Ma ce la fai a rompere le scatole stasera o no? Alla bassa, eh? Da quale pacco di patatine ne sei uscito? Da fuori. Ma tutti di remolo. Sì, ma giusto. Non prendo in considerazione, tutti di. Va bene. Ma giusto, ok. Almeno due verme, te lo toglie. Gianni, dove sei Mariuccia? Ma guarda che sei Mariuccia. Io l'ho avuta la vera fresca a Mariuccia ma 50 anni fa. Ecco, 50 anni fa, 30 anni. Ho 20 anni io. Sento mai. Ui, non ne ho 100 però. Ce li ho i miei anni. Continua a rispondere, ma non da loro. E se no non finisce più. Fate un giro. Andiamo a prendere un caffè. Non vedi che mi sono morto? Non lo vedi la Gianni, prendiamo il caffè. Come Dio. Molto bene. Gianni, come Dio, c'è un caffè. Un amico. Solamente, pensavo fosse un amico. Un attimo, mi scopo già. Ma hai capito, Lucchie? Con Lucchie, adesso. Ma ne vuoi fare 20 anni? Gianni, cosa dire voi? Gianni, ti offro Mariuccia. Gianni, sei io Mariuccia? Tu le stai cercando di capire chi è? A me ne ho tutto un po' fatto, sicuramente. Sono andato a vedere il caso di Cosenzon, perché mi intricca, come ne ha fatto i primi inglesi. Adesso mi sta scherzando, c'è un amico. Magari c'è qualche utile, c'è stato Bruno, fai da bravo, se no ti chiama Mariuccia. Basta che ce ne fai. Vabbè, non ho più palle. Se uno deve chiamare la casa. È già parata la mazza. Uscire dove va, questo non vuoi niente del genere. Ma per carità. Gianni, fai da bravo, ne vuoi passare i piedi? Io sono bravo, ma non mi devo passare i piedi però. Ma io scherzo. Vabbè, ma lo scherzo almeno se che dura poco, per cui se ti vuoi presentare siamo qua, lo scherzo per me è finito, vai. Io sono il marito di Mariuccia. Magari c'è un buon odore. Vedi, mi zuppa le mani, poi c'è lo scherzo meglio quando dura poco. Tu, arrivo il fatto che ti... Pino, avanti. Uno, ma ce l'hai i canali alfa? Gianni, hai lo scherzo che ti muccio. Sono 40 basta. L'ultimo allora, cioè, io l'ultimo, vai sull'ultimo. Gianni. Sta parlando, non lui sta parlando, a casa di qualche persona che c'è un po' di colazione, c'è di con la radio, come è entrato, mi sembrava di avere questa addirittura schiena. Ah, partito, sì. Gianni, Mariuccia, dov'è? Siete di moto. Cattolo, sono tutti e tre, che c'è gente. Gianni. Fa su 10, dai, tanto. Bruno. Sai che te ne varia. E da chiamata, se c'è da giunta, vogliamo dire punto di Sibozia. Vabbè, tutti spariti sono. Bruno, ti sento io, eh. Bruno, attenzione, Bruno Uragano, cambio.